Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Città Fujiko. Siamo qui con Paolo Brini della Banda Popolare dell'Emilia Rossa. Ciao Paolo. Ciao, ciao, grazie mille per l'invito. Domani, anzi stanotte, uscirà il vostro nuovo singolo. Volevo chiederti se ci introduci un po' il singolo in sé, di cosa parla, anche perché ho visto che è un brano che denuncia le politiche repressive dei cosiddetti sindaci sceriffi. Quindi vai, raccontaci tutto. Esattamente, sì, appunto il titolo è proprio Lo sceriffo della mia città. È un pezzo che abbiamo realizzato assieme a Zulu dei 99 Posse. Credo che sì, già il titolo sintetizzi bene qual è il senso della canzone, e cioè siamo di fronte a una politica che non solo da oggi, diciamo oggi probabilmente sta raggiungendo l'apice della spudoratezza, ma diciamo è una politica che va avanti da almeno una trentina d'anni, di repressione e punizione nei confronti della povertà. E oltre che della repressione e della punizione della povertà, anche dell'attacco ai diritti civili, come il diritto all'aborto, eccetera, e quindi a maggior ragione in questo periodo. Quindi ci sembrava necessario raccontare, cantare, denunciare, gridare contro questa politica. Peraltro poi a Bologna, come dire, voi siete stati fra i primi ad avere i sindaci sceriffi, che poi si sono diffusi in tutto parterre nazionale, purtroppo. Il ritornello lo canterà in napoletano o Zulu, esatto. Di 99 Posse. Com'è stato il vostro incontro? Beh, diciamo, noi siamo amici da molto tempo, quindi era risultato quasi naturale fare una collaborazione, ed è stata fulminea, nel senso che gli mando appunto questo pezzo, una bozza, gli dico: ma senti, noi qui ci manca il ritornello, tu c'hai un'idea? E dopo 20 secondi mi risponde con il ritornello fatto. Gli ho detto: vabbè, allora ce l'avevi già pronto. E in effetti ce l'aveva già pronto, era una cosa che aveva lì e che non sapeva dove mettere, quindi, come dire, direbbe Hegel, il caso esprime sempre la necessità, e in questo caso ce l'ha confermato. Ho visto che il vostro album, sempre dalla parte del torto, partirà, sì, con un crowdfunding. Allora, devo dire che è già partito da una settimana, siamo abbastanza soddisfatti, siamo al 65% dell'obiettivo minimo, però ovviamente è poi anche il modo attraverso cui poter acquistare il disco. Usiamo sempre questo strumento perché, essendo una band di metalmeccanici ma completamente autofinanziata e autoprodotta, ovviamente teniamo molto a questo, perché chi paga l'orchestra decide sempre la musica, e noi vogliamo che a pagare la nostra orchestra sia chi ci sostiene, ecco, chi segue la nostra musica. Sempre dalla parte del torto, ovviamente, un titolo che è un aforisma di Brecht e allo stesso tempo è anche un po' un omaggio a Claudio Lolli, che intitolò un album Dalla parte del torto. Quindi, insomma, diciamo che sintetizza bene il concetto di tutte e 10 le canzoni che ci sono nel disco, sulla necessità oggi più che mai di schierarsi e di alzare la testa e lottare contro questo sistema aberrante. Cercandovi un po', insomma, su internet, ho visto che uno dei vostri motti che vi segue è quello di André Breton: indipendenza dell'arte per la rivoluzione per la liberazione definitiva dell'arte. Come mai vi accompagna questa frase molto potente? Beh, perché, diciamo così, sintetizza molto bene qual è la nostra visione dell'arte. Ecco, se ci penso un po' anche la famosa frase di Majakovskij, cioè l'arte non deve essere semplicemente uno specchio che riflette la realtà, ma dovrebbe essere un martello che la modella. Ecco, questo deve essere l'arte. E credo che appunto il surrealismo, il movimento surrealista, poi Breton in particolare, con questa frase ha sintetizzato bene cosa dovrebbe essere l'arte, cioè uno strumento ovviamente che anche costruisce il bello, anche dà piacere, ma allo stesso tempo deve essere anche uno strumento attraverso cui tu dai dei cazzotti nell'occhio a questo sistema e crei coscienza e consapevolezza tra la gente. Poi del resto la musica, la canzone nel movimento operaio, nella storia della resistenza, eccetera, è sempre stato un elemento centrale per fare anche propaganda, ecco. Grazie mille Paolo. L'ultima domanda: avete in programma qualche live quando uscirà l'album? Allora, guarda, proprio cade a pennello, perché sabato suoneremo a Marzabotto a Montesole per l'Ampi, quindi diciamo così lì faremo la prima festa. Poi ovviamente abbiamo tutta una serie di date che saranno tra luglio e agosto. Perfetto. Allora, noi nell'articolo di questa intervista lasciamo anche il link per il crowdfunding, se i nostri ascoltatori, certo, e sicuramente i nostri ascoltatori contribuiranno, e mandiamo subito in onda in anteprima, perché abbiamo questa immensa fortuna, Lo sceriffo della mia città. Grazie mille. Spoiler. Spoiler. Ma vabbè, intanto anticipiamo i tempi e secondo me merita di essere ascoltato. Grazie mille Paolo per la bellissima chiacchierata. Grazie a te, grazie a voi per l'ospitalità.